Tutto ha avuto inizio con un seminario sul cyberpunk tenuto durante la Pantera nel 90 nella facoltà di lettere alla Sapienza di Roma che organizzai, poi seguì un altro seminario, questo grandissimo in Aula Magna a lettere, e questo era inizio 91, e poi vabbè, mi conoscevo con Maurizio, con Graffio Del Forte, e entrammo in fissa che volevamo aprire una BBS dentro il Forte Prenestino. E poi le cose sono andate avanti, una serie di incontri, seminari, di viaggi tra Milano, Sant'Arcangelo a Mutonia, e il rapporto sempre più stretto con la redazione di Decoder, fino a quando organizzammo una prima festa io e Maurizio in due al Forte. Certo, fu un festone, un vero, una cosa enorme, e se non ci fosse stata la macchina da guerra che è il Forte Prenestino nell'organizzazione degli eventi, non saremmo mai riusciti in una cosa del genere. Però ce la sgobbammo tutti da soli, l'ideazione, la progettazione, trovare tutti quelli che intervenivano al seminario, chi suonava, i DJ, le installazioni, le performance, e niente. Poi seguì a raffica subito un'altra nel 94, con i soldi di queste due feste, ma questa, abbiamo aperto la Havana BBS. La seconda festa non eravamo ad organizzarla in due, già c'era quello che è stato il nucleo iniziale di Havana, e così è partita la storia. Ciao. Thank you.